TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia. A Gemona sollevati per il rientro nella notte da Dubai dei due studenti del liceo Magrini che si trovavano negli Emirati per il progetto studio delle Nazioni Unite, ambasciatori del futuro. Oggi Francesco e Alessandra erano già a scuola dove hanno condiviso con i compagni la loro esperienza. La guerra nel Golfo Persico ha imposto un aggiornamento delle misure di sicurezza a livello nazionale. Il prefetto ha convocato i vertici delle forze dell'ordine in regione per definire i protocolli di sorveglianza degli obiettivi sensibili che saranno intensificati. Due operai di 30 anni entrambi sono rimasti feriti in due distinti infortuni. Il primo è rimasto ferito in modo serio al torace in un impianto di Basigliano, è stato ricoverato all'ospedale di Udine, non è in pericolo di vita. L'altro è stato colpito alle gambe da un pezzo di metallo di 20 quintali a San Giorgio di Nogaro. L'elisoccorso ancora sul posto. A Udine flash mob contro la cementificazione del canale Ledra. Legambiente chiede che vengano anche messe delle recinzioni a protezione della fauna selvatica. Protezione dei vigili del fuoco aderenti al CONAPO a Gorizia per le gravi criticità organizzative del comando isontino del corpo. L'associazione Banca Italiane ha diffuso una circolare che parla della sospensione delle rate dei mutui in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici del novembre 2025 nel territorio delle province di Gorizia e Udine. Buongiorno da Daniele Letti, Genada Cioc per questa edizione del giornale radio che apriamo con i due studenti del liceo di Gemona Magrini che sono rientrati ieri a mezzanotte a casa dopo essere rimasti bloccati sotto i droni iraniani a Dubai assieme ad altri 200 coetanei italiani che partecipavano al progetto didattico delle Nazioni Unite, ambasciatori del futuro. I due studenti, Francesco e Alessandra, erano oggi già a scuola per condividere la loro esperienza che sicuramente ha superato le prospettive degli ideatori del progetto didattico presso il Palazzo di Vetro. Sentiamo il servizio. Sono state giornate di apprensione quelle trascorse al telefono per Marco Tommasi, dirigente scolastico dell'ISIS Magrini Marchetti di Gemona. 24 ore fa la bella notizia che i suoi due studenti, Francesco e Alessandra, bloccati a Dubai assieme ad altri 200 ragazzi del progetto ambasciatori dell'ONU, sarebbero rientrati a casa, e così è successo. E sono rientrati ieri nel volo Abu Dhabi Milano e ora sono qui a scuola. Preside, per lei che cosa ha significato adesso vedersi di qua? Insomma, sono state giornate pesanti. L'importante è appunto che siano qua, siano tranquilli, siano rilassati, abbiano fatto comunque una bella esperienza. Effettivamente però i giorni scorsi sono stati un po' pesanti, anche se non erano in pericolo imminente, comunque c'era da preoccuparsi per loro. E il fatto che siano qui così presto, noi li aspettavamo addirittura fine settimana o addirittura la prossima settimana, visto l'ambiente. Quindi siamo molto felici per questo. Alessandra, che giornate sono state per te? Sono state giornate un po' pesanti, noiose, un po' di paura, però sono passate grazie anche al gruppo che abbiamo fatto, che abbiamo formato, siamo stati tutti insieme, ci siamo aiutati a vicenda nei nostri momenti di panico. Stare nel seminterrato dell'hotel e vedere i missili sopra la testa? I missili non sono state tanto quelli la mia paura, cioè è stato comunque toccante, ma li vedevo comunque che erano lontani e vedevamo che venivano intercettati, quindi per quello. Il problema è stato nel bunker, anche perché eravamo tutti lì in questa situazione, tutti in pigiama, appena svegli, corsi giù. Lì io mi sono sentita veramente in pericolo, avevo paura. Francesco, tu vorresti anche lavorare in un futuro nella diplomazia. Voi siete andati là per imparare la diplomazia e poi invece i grandi fanno i conflitti. Sì, esatto, è stato molto ironico il fatto che noi siamo andati a fare una simulazione diplomatica per cercare di fermare comunque un primo obiettivo della diplomazia, è fermare le guerre, invece scoppia a caso, perché io sinceramente sapevo che c'erano delle tensioni ma non lo sarei mai aspettato, scoppia a caso una guerra e lì dici che senso ha allora? Gemona, Anna Vitaliani, TGR Friuli, Venezia Giulia. Un vertice tecnico in prefettura a Trieste con le forze dell'ordine per intensificare le modalità dei presidi dagli obiettivi sensibili data la situazione geopolitica attuale. Si è concluso in prefettura il settimanale tavolo per l'ordine e la sicurezza in Piazza Unità, alla presenza oltre che del prefetto anche della questora e del comandante provinciale dell'Arma dei Carabinieri e quello della Guardia di Finanza. L'ordine del giorno è elevare il livello di attenzione degli obiettivi sensibili come ad esempio la sinagoga, dove peraltro tempo c'è una pattuglia dell'esercito H24. L'intensificazione consiste nell'aumentare la frequenza dei passaggi delle numerose pattuglie che già regolarmente controllano gli obiettivi sensibili a Trieste. L'ordine è quello di avere un'attenzione particolare ai dettagli e di aumentare il flusso informativo. Molto importante anche il controllo della cybersicurezza, perché sappiamo che in questa contingenza difficile la sicurezza passa anche dal web. Le linee di frontiera saranno guardate con maggiore attenzione, soprattutto sul versante sloveno. Al momento, quindi, gireranno in città due pattuglie fisse H24, sia delle volanti della questura dei carabinieri e più residualmente quelle della Guardia di Finanza. Ci saranno anche delle vigilanze dinamiche dell'esercito in Porto Vecchio e al consolato americano giorno e notte. Le forze dell'ordine, già impegnate nel controllo del territorio con il 118, vigileranno gli obiettivi sensibili di Porto Vecchio, i magazzini, in particolare la sinagoga, gli obiettivi statunitensi come l'American Corner in piazza Ponte Rosso e anche gli obiettivi israeliani, con tre pattuglie più due a Muggia e Duino, per un totale quindi di 5 pattuglie nella provincia H24. Anche i carabinieri mettono a disposizione dalle 3 alle 5 pattuglie al giorno. Trieste, Francesca Terranova, TGR, Friuli Venezia Giulia. Due incidenti sul lavoro, il primo alla Clampco di Basigliano, che si occupa di progettazione di sistemi di segnalazione di ostacoli al volo. Un uomo di 30 anni ha riportato un trauma al torace causato da un oggetto metallico ed è stato portato all'ospedale di Udine in codice giallo, quindi non è in pericolo di vita. L'incidente sarebbe stato causato dall'esplosione di un utensile, di un macchinario, ma le verifiche sono in corso. Poco fa il secondo infortunio alla Mavra di San Giorgio di Nogaro, un operaio di 30 anni è stato colpito alle gambe da un pezzo di metallo di 2 tonnellate e ha riportato un trauma grave agli arti inferiori. Sul posto ancora l'elisoccorso. A Udine, flash mob contro la cementificazione del canale Ledra. Legambiente chiede che vengano anche messe delle recinzioni a protezione della fauna selvatica. Il circolo Legambiente di Udine critica duramente gli interventi ad opera del consorzio di bonifica friulana lungo il canale Ledra nella periferia sud di Udine. L'opera in costruzione ha un valore di 4.890.000 euro, risorse derivanti dal finanziamento del Ministero dell'Agricoltura. Legambiente Udine ha convocato un flash mob in via Marsale, presenti una decina di persone e il responsabile Marino Visintini, che ha chiesto interventi che tengano conto anche della tutela degli animali. Secondo gli ambientalisti, i nuovi canali modificano la morfologia dell'ambiente, le canalette in cemento potrebbero costituire pericolo di annegamento per la fauna selvatica. Abbiamo chiesto la replica al consorzio di bonifica pianura friulana. Il direttore Armando Di Nardo spiega che il consorzio ha ottenuto un finanziamento regionale proprio per la salvaguardia della fauna selvatica. Il progetto riguarda tutti i consorzi della regione ed è sviluppato in collaborazione con l'Università di Udine. Di Nardo auspica inoltre una soluzione anche per il tratto basso del canale di Trivignano. Sul piano tecnico, sempre per il consorzio, è intervenuto il geometra Mauro Vidoni. Nei canali non impermeabilizzati, ha spiegato, la dispersione d'acqua può arrivare al 30-40%. Le nuove canalizzazioni dunque servono per ridurre le perdite, migliorare l'efficienza irrigua e gestire meglio i flussi idrici. Udine, Andrei Marusic, TGR, Friuli Venezia Giulia. I vigili del fuoco di Gorizia in sciopero per le gravi criticità organizzative che non si riescono a risolvere. Alla base della protesta, decisioni organizzative e strutturali, la riorganizzazione dell'ufficio di polizia giudiziaria e le criticità legate ai lavori di adeguamento della sede centrale. I vigili del fuoco di Gorizia scendono in piazza e sono pronti allo sciopero. Andrea Leban, segretario Conapo Gorizia. La dirigenza non ha un piano, secondo noi, di programmaticità su quello che sarà il futuro della caserma. Vediamo delle ristrutturazioni fatte un po' a spizzichi e mozzichi, senza appunto avere una condivisione d'insieme e una progettazione, diciamo, per quello che sarà il comando dei Vigili del Fuoco nel futuro. La protesta coinvolge tutto il personale, non soltanto gli iscritti al sindacato autonomo CONAPO. A Gorizia sono 150 i Vigili del Fuoco. Una delegazione ha incontrato il prefetto Ester Fedullo. Tra i motivi della protesta anche la questione dell'ufficio di polizia giudiziaria, incarico coperto soltanto parzialmente secondo il sindacato. Damian Nacini, segretario regionale CONAPO. Quell'ufficio fondamentale, specialmente per i capisquadra e anche per il personale operativo, è stato chiuso, dato come incarico a un funzionario, a un dirigente, e quindi anche questo dirigente adesso in questo momento si trova anche con più incarichi. Secondo invece la comandante Cira Piscicelli, la persona incaricata insieme al gruppo che è stato costituito riesce a gestire tutto il lavoro dell'ufficio giudiziario. Le opere di ristrutturazione e di efficientamento energetico della sede sono definite, spiega Piscicelli. Da quando mi sono insediata, nel settembre del 2024, le ho da subito sollecitate. Si tratta di un problema di fondi, conclude. Sembra evidente comunque uno scollamento nei rapporti tra il comandante e il personale. Gorizia, Sebastiano Franco, TGR, Friuli Venezia Giulia. Il sindaco di Gorizia, Rodolfo Ziberna, si trova al Vaticano assieme al suo omologo di Nova Gorizia, Samo Turel, con il quale ha condiviso la capitale della cultura europea nel 2025. I due primi cittadini di Go 2025 sono in udienza dal Papa Leone XIV. E alle 12.41 siamo al tempo, il cielo è sereno sulla regione. Queste le temperature registrate alle 11, a Trieste 9 gradi, a Gorizia e Udine 13, a Pordenone 11, a Tolmezzo 10, a Forni di Sopra 10, a Tarvisio 9, a Sappada 3, sul Monte Lussari 4, sul Monte Zoncolan 3, sulla costa a Lignano e Grado 8 gradi. Le previsioni, cielo in prevalenza poco nuvoloso, possibili foschie o nebbie sulla costa. La Questura di Trieste ha predisposto dei servizi straordinari di controllo del territorio in relazione alla necessità di sorvegliare le aree del centro città connotate da particolari condizioni di degrado urbano. In particolare, i servizi sono stati svolti nella serata di venerdì e hanno interessato prevalentemente Piazza Venezia e la cosiddetta area della Movida, Viale 20 Settembre, e poi Piazza Libertà e il Borgo Teresiano, Bivio di Miramare, l'area che dal largo Barriera Vecchia attraversa Piazza Garibaldi e arriva a Piazza del Perugino, Campo San Giacomo, il Rione di San Vito, Borgo San Sergio e Maura. Per i servizi sono stati impegnati, oltre al personale della Polizia di Stato, gli equipaggi del reparto Prevenzione Crimine della Polizia di Stato di Padova e poi personale dell'Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza con unità cinofila e della Polizia Locale con unità cinofila. Complessivamente sono state identificate 120 persone, di cui 50 cittadini stranieri. Tra le persone identificate, 5 sono state denunciate per vari reati, tra cui ricettazione, oltraggio a pubblico ufficiale, violazione del divieto di accesso alle aree urbane e un'altra per porto abusivo di oggetti atti a offendere, perché trovata in via Sette Fontane a brandire una catena d'acciaio con lucchetto. Un altro soggetto trovato all'interno di uno dei locali controllati è segnalato dalla locale prefettura. Sono stati inoltre sequestrati 45 grammi di hashish nascosti nelle siepi di Piazza Garibaldi. Nella stessa notte anche i carabinieri di Gradisca di Sonzo hanno effettuato un servizio di controllo straordinario finalizzato alla prevenzione dei reati predatori e al monitoraggio dei flussi migratori, con una serie di posti di controllo e pattugliamenti nei comuni di Gradisca di Sonzo, Romans, Mariano del Friuli e Cormons. Complessivamente sono state identificate 69 persone, ispezionati 50 veicoli. Presso la stazione ferroviaria di Cormons i carabinieri hanno intercettato un gruppo di 9 cittadini stranieri privi dei validi documenti di soggiorno. E ora una precisazione in merito al servizio messo in onda ieri sulle opere finanziate con fondi PNRR. I lavori della scuola di via Tigor a Trieste non sono eseguiti da nessun consorzio ma dall'impresa Omnia Costruzioni. I lavori procedono secondo il cronoprogramma del PNRR e non si evidenziano allo stato attuale ritardi in relazione alle scadenze previste. Sospese le rate dei mutui per coloro che sono stati colpiti dalle calamità in novembre. È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale l'ordinanza del capo Dipartimento della Protezione Civile, che sospende il pagamento delle rate dei mutui in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici del 16 e del 17 novembre del 2025 nelle province di Gorizia e Udine. A comunicarlo ai suoi associati è l'Associazione Bancaria Italiana. L'ordinanza recepisce i contenuti dell'accordo sottoscritto proprio da ABI, dalle Protezione Civile e dalle Associazioni dei Consumatori per assicurare tempestività degli interventi interventi a favore delle popolazioni colpite da calamità. I temi della salute. In occasione della giornata mondiale contro il papillomavirus, il centro di riferimento oncologico di Aviano rinnova il suo impegno a favore della prevenzione. Per tutta la mattinata gli ambulatori ginecologici del CRO di Aviano sono stati aperti per incontri gratuiti senza appuntamento con i professionisti della chirurgia oncologica ginecologica in occasione del Open Day dedicato al papillomavirus. L'HPV è responsabile della quasi totalità dei tumori del collo dell'utero, 2400 casi ogni anno in Italia e oltre 50 solo in Friuli Venezia Giulia. Anna Del Fabbro, ginecologa. Si stima che circa l'80% della popolazione nell'arco della vita incontri l'infezione, ma la buona notizia è che nella maggior parte dei casi in realtà queste infezioni possono regredire spontaneamente. Chiaramente una parte di queste infezioni invece può evolvere e dare delle lesioni pretumorali che potrebbero portare nell'arco del tempo a delle lesioni invasive. L'obiettivo dello screening e della vaccinazione è proprio quello di prevenire i tumori invasivi vaccinando quando indicato e appunto facendo dei controlli che ci permettono di identificare la malattia negli stadi preinvasivi o assolutamente iniziali. Il programma di screening regionale è gratuito e prevede il PAP test e l'HPV test per le donne sopra i 30 anni. L'HPV test è stato introdotto a partire dal 2019 e permette di allungare l'intervallo di screening a 5 anni ed è un test che deve assolutamente essere effettuato anche dalle pazienti vaccinate. Il prossimo passaggio sarà differenziare la chiamata in base allo stato vaccinale. Le pazienti vaccinate con dose completa entro i 15 anni di età verranno chiamate a 30 anni anziché 25. È fondamentale aderire al programma di screening che ha sensibilmente cambiato la storia del tumore del collo dell'utero grazie alla capacità di identificare le lesioni prima che diventino invasive o in stadi assolutamente iniziali. Aviano, Natascia Gargano, TGR, Friuli Venezia Giulia. Per le donne nelle STEM, fai di te stessa una testimonial, è il titolo dell'evento organizzato dall'Università di Udine per presentare la campagna social dell'Ateneo dedicata all'attività delle donne della comunità universitaria attive nelle discipline scientifiche. Concluderà l'evento l'assegnazione della prima edizione del premio di laurea Confagricoltura Donna FVG, che promuove il talento e la passione femminile nel comparto agroforestale, alle 14.30 nella biblioteca del Polo Scientifico dei Rizzi. In occasione dell'81esimo anniversario della morte di Guido Alberto Pasolini, il partigiano Hermes, fratello del poeta ucciso nell'eccidio di Porzus, lo storico dell'Università di Udine Paolo Strassolini, che alla vicenda ha dedicato lunghe ricerche, terrà una conferenza sul tema a Gorizia alle 18 alla Sala Dora Bassi. Gli abbiamo chiesto perché quella di Porzus si può definire la pagina più oscura della Resistenza italiana. Perché anche se non particolarmente impattante dal punto di vista dei numeri delle vittime, però evidentemente si colloca in uno scenario ideologico, nazionale e di competizione fra le nostre fazioni della resistenza che è del tutto particolare nel quadro del fenomeno italiano. Per quanto riguarda la necessità di ricostruire le circostanze della fine di Guido Alberto Pasolini, perché queste vennero in realtà in qualche modo ricostruite in fase processuale con un approccio assolutamente irrituale, ma per detta dello stesso giudice la ricostruzione che venne offerta nella sentenza, diciamo, di Udine fa acqua da tutte le parti. E quindi che cosa di nuovo è emerso anche dagli studi che anche lei ha fatto? Raccogliendo quelle che ormai sono le testimonianze di seconda mano, sono riuscito a ricostruire uno scenario che è diverso da quello che emerge nei tempi, nei luoghi e nei modi, da quello che emerge dalle fasi processuali, insomma. Quindi cercando di applicare un rigore il più possibile scientifico e incrociando questo con le testimonianze ricevute, insomma, credo di poter offrire uno scenario che risponde almeno alle circostanze che sono state messe in evidenza. Marana Varria, campionessa olimpica e vicepresidente di EIA of Lignano 2027, ha incontrato gli studenti e gli insegnanti di quattro classi del liceo artistico Sello di Udine per illustrare i giochi olimpici della gioventù europea che si terranno a Lignano appunto nel 2027. Sarà la seconda volta che la località balneare e il Friuli Venezia Giulia ospiteranno l'edizione estiva di questo evento sportivo aperto ai giovani di 50 paesi. Agli alunni è stato chiesto di realizzare una serie di bozze per la mascotte dei giochi. Nel frattempo continua il lavoro di preparazione del comitato organizzatore. Il primo test event in aprile, quando a Lignano arriverà la commissione tecnica del Comitato Olimpico Europeo che seguirà la gestione del Lignano ETE Triathlon Memorial Ardito, a cui parteciperanno anche atleti della categoria Under 18 sulle distanze sprint, 750 metri di nuoto, 20 km in bici, 5 km di corsa, le stesse del programma di gara di EIOF 2027. L'Alpe Adria Trail, il cammino che collega il ghiacciaio del Grossglockner in Austria con la costa triestina, sarà sviluppato ulteriormente grazie a nuove convenzioni transfrontaliere. Si rinnova per altri 3 anni l'Alpe Adria Trail, il percorso escursionistico transfrontaliero di circa 750 km che collega il ghiacciaio austriaco del Grossglockner al mare Adriatico di Muggia, attraversando Friuli Venezia Giulia, Carinzia e Slovenia. Diviso in 43 tappe, da circa 20 km ciascuna, può offrire paesaggi variegati, cultura e gastronomia ed è adatto anche agli escursionisti meno esperti. Il trail può contare su un alto standard di infrastrutture e segnaletica con opzioni che permettono di personalizzare le tappe, prenotare alloggi e beneficiare di servizi trasporto bagagli. La firma dell'accordo triennale è avvenuta ieri alla Fiera Internazionale del Turismo di Berlino, alla presenza di Daniela Santanchè, ministra del Turismo. Per la nostra regione, dopo il calo dei flussi internazionali dovuti alla pandemia, negli ultimi 2 anni si è registrata una ripresa significativa, ha sottolineato il direttore generale di Promoturismo FVG, Jacopo Mistroni, che ha firmato la convenzione assieme ai suoi omologhi sloveni e austriaci. L'intesa garantirà la prosecuzione dell'attuazione congiunta della promozione e del finanziamento dell'Alpe Adria Trail fino al 2028. A Berlino, la nostra regione era presente con 13 operatori negli spazi dell'ENIT, l'ente che gestisce la promozione turistica del nostro paese a livello internazionale. Andrea Rinaldi, TGR, Friuli Venezia Giulia. Un incontro sotto il segno di Bobby Bazlen, l'intellettuale triestino nume tutelare della casa editrice Adelphi, per parlare della figura del consulente editoriale, uno scout di nuove proposte che lavora dietro le quinte e oggi ha assunto caratteristiche molto diverse dal passato. Si terrà oggi al Museo Letz di Trieste e vedrà gli interventi del direttore Riccardo Cepak, dell'operatore culturale Valerio Fiandra e di Svevo D'Onofrio, già docente di indologia all'Università di Bologna. Appuntamento alle 17.30. Per il corso di formazione dedicato all'orticoltura e al verde urbano promosso dall'Associazione Bioeste e Orti Comuni di Trieste, incontro con Francesco Walter Pansini sul tema Ritornare in forma anche in età, alle 17.30 in via dei Modiano numero 5. Orto Teatro propone lo spettacolo per bambini Lo Schiaccianoci e il Re dei Topi con la partecipazione dell'attore burattinaio Fabio Scaramucci a Villesse alla Sala Don Bosco alle 15. E questo è tutto per questo giornale radio che è stato redatto e condotto da Daniele Letti, Genada Cioc, con la collaborazione di Tommaso Vinoni e Marco Ferrito. Ha collaborato in redazione Isabella Parruto. Da tutti noi l'augurio di un buon pomeriggio. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.